a mio figlio nel 2016, il 21 aprile del 2016, con altri 4 amici, dopo aver visto, passando con il treno, andando a scuola all'agrario di Sasso Marconi, l'ex cartiera, ha avuto la bella idea di andare in perlustrazione a fare un giro in questa ex cartiera. Sono entrati da una recinzione aperta, che è aperta a tutti, lo sanno tutti perfettamente, e sono salite dalle scale esterne, e non sono protette le scale, quindi vi si accede tranquillamente. Sono saliti sul tetto dell'edificio, che ha un'altezza di quasi 8 metri. Mio figlio capitanava la squadra, quindi era davanti a tutti, e ha messo un piede in fallo su un abbaino, su un lucernaio. Di legge dovrebbe essere protetto da una rete metallica oltre il vetro o plexiglass che sia. Questo è facilmente comprensibile anche per tutti gli animali, gli uccelli che possono poi rimanervi incastrati, cadere, farsi male, anche le persone, e ha ceduto. Il plexiglass è ceduto e adesso è caduto da quasi 8 metri. E ha riportato, come dire, una lesione grave che lo paralizza per metà del corpo, giusto? Esatto. La diagnosi esatta è paraplegia post-traumatica di 11, ASIA, e a seguito della caduta ha una frattura pluriframmentaria da L1 a L5. Una frattura della squama occipitale, del cunnilo occipitale di destra, trauma toracico con contusioni polmonali bilaterali, frattura del bacino, frattura addominale con contusione plenica e renale. Lui è stato in ospedale 10 mesi, ha, come dire, subito diverse operazioni? È stato stabilizzato all'ospedale maggiore di Bologna. Dopo 3 giorni di rianimazione siamo passati alla struttura di Montecatone, riabilitativa. È rimasto lì per 9 mesi e mezzo. Dopodiché abbiamo fatto altri 9 mesi di day hospital a Montecatone, quindi in pratica 4 volte alla settimana andavamo sul mattino e tornavamo la sera per altri 9 mesi. Abbiamo finito da poco. Tuo figlio, insieme agli altri compagni, è stato denunciato dalla proprietà. Esattamente, le due proprietarie hanno denunciato i ragazzi per violazione di proprietà. Questo, il fascicolo è stato archiviato, giusto? Esatto. Sì. Tu hai contro, diciamo, denunciato la proprietà perché? Io ho contro denunciato la proprietà perché non è protetta assolutamente, perché gli si accede in maniera molto facile. Ci sono, è vero, cartelli che denunciano il fatto che non ci si può entrare, ma è comunque un luogo dove vanno spesso tutto il comune di Borgo Nuovo, di Sasso Marconi, il comune di Sasso Marconi, tutti sono a conoscenza del fatto che ci si entra e che le persone sono messe a rischio. Comunque è un edificio a rischio, una struttura a rischio, sia per le scale interne che salgono sui tetti, sia per i lucernai, sia per la struttura stessa, che è assolutamente in uno stato di degrado assoluto. Da quanto tempo è abbandonata, lo sai? No, però da parecchio, penso proprio da parecchio. Anche prima che appunto tuo figlio e i suoi amici entrassero, era noto che c'erano dei varchi nella recinzione, si poteva entrare? Ma assolutamente sì, sono stati anche i vigili urbani di Sasso Marconi a comunicarmi che comunque la situazione era già nota a loro, e avevano anche chiesto alle due finanziarie proprietarie dell'ex cartiera di fare in modo di proteggere questa struttura, di proteggerla in modo più concreto rispetto a quello che era stato fatto, ma mi sembra che non sia stato fatto nulla. Però appunto anche la denuncia che hai fatto tu rischia di essere archiviata. Esattamente, la denuncia che ho fatto io per lesioni colpose gravissime, sì, in pratica stanno chiedendo l'archiviazione. Però insomma questo apre un tema anche più generale, insomma, che parte dalla vicenda ovviamente drammatica di tuo figlio, ma che riguarda la sicurezza di luoghi lasciati all'incuria, abbandonati. Da questo versante tu hai avuto modo anche di confrontarti magari con il comune di Sasso Marconi, con altre istituzioni? Sì, io in realtà quando abbiamo presentato la richiesta per non archiviare questa denuncia, ho contattato sia il primo cittadino di Sasso Marconi, sia la polizia municipale che i carabinieri, però sembra che non si possa fare nulla, sembra che tutti sappiano ma nessuno abbia il coraggio di dire nulla. Dopo tutto quello che è successo, ma cosa pensi? Penso che innanzitutto ci sono delle indagini da fare e che sono veramente importanti, perché comunque comunque il PM che ha chiesto l'archiviazione non ha fatto fare nessun sopralluogo ulteriore, cioè in pratica si è basato su quello che hanno raccontato, che hanno denunciato comunque i carabinieri e i vigili del fuoco intervenuti al momento dell'incidente, mentre invece secondo me erano opportune delle rilevazioni successive. Io naturalmente quando ho fatto richiesta di non archiviazione ho presentato delle documentazioni anche video dove si evince che si entra in modo tranquillo. Mi sento arrabbiata perché questa storia verrà insabbiata, perché le due finanziarie credo che siano piuttosto importanti, soprattutto quella di Milano, e perché penso che non sia l'unico edificio in queste condizioni a Bologna. Probabilmente si agirà soltanto dopo qualcosa di più grave che capiterà, perché prima o poi capiterà. C'è qualcuno mai che ti ha fatto notare che tuo figlio comunque è entrato in modo illegale? Sì, certo, ne sono perfettamente consapevole, però io mi chiedo quanti di noi non abbiano mai fatto in vita loro un fughino da scuola, una fuga da scuola come la chiamiamo a Bologna, e non abbiano commesso un reato gravissimo come questo. Quanti? Non so, chiediamocelo. Certo, questi luoghi sembrano un po' anche invitare, magari perché hanno il fascino dei proibito, per magari per dei ragazzini. Ma certamente.